famiglia al posto di fare auto faranno caserma, sì, me lo guadagnano. E noi non possiamo entrare in guerra con nessuno, siamo disarmati da quando era successa la guerra. Noi armi non ne possiamo avere, hai capito cos'è il discorso? Sì, già lo so, noi siamo disarmati. Anche la Germania non sta facendo qualcosa, in teoria. Non dovrebbe avere armi per niente, invece si sta riarmando, hai capito? Sì, noi possiamo aiutare solo se un paese della NATO entra in guerra, e cioè gli americani, la Germania. Noi dobbiamo aiutare, le armi ce le possiamo avere solo per quel motivo, ma non per entrare in guerra con nessuno. Anche noi non possiamo entrare in guerra con nessuno. Non ci abbiamo nulla, cosa vuoi fare? Non ci abbiamo tutto e niente. Ce l'abbiamo da bavecchiami, ce l'abbiamo con quello che abbiamo, facciamo una figura, torna, vedrai tu la scena. Ui. Vabbè Antone, io me ne passo in quel letto, tanto Marco adesso non c'entra. A chi ha detto che andava a farsi un caffè, ma no, entra, io già ebbe duro un questo caffè che si ha fatto. Ecco, buonasera. Avanti, poco d'ora, buonasera. Buonasera Antonello, buonasera Natalino. Ma dove sei? Dentro frizza. Perché Antone? C'hai un rumore sotto, allucinante, questo sembravi dentro un macchinario. No, perché ho la carta accesa a fiamma. C'ho la carta accesa. Sono in 7.000. Ah, ecco. Sto ascoltando una cosa. E allora? Ah, che Natalino era in ascolto in giro per le frequenze. Ciao Gabri, io me ne sto passando in quel ritiro, stavo dicendo ad Antonello, perché si è fatta l'ora di Favesini, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonello, ciao Gabino, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime. Ciao Natali, ci sentiamo, buona cena, buon tutto. Avanti Gabri. E io, ciao Natali, ci sentiamo alle prossime. E allora Antone, com'è? Ehi, andando, adesso vai bene, comunque ti sento benissimo. Andando, stiamo. Poi con questo tempo che c'è, adesso c'è caldo, fra un paio di giorni fa di nuovo freddo cane. Quando uscivo la mattina, fino a 2 settimane fa, alle 7, alle 8, me ne scendeva le gocce del mucciolo al naso. Devo stare sempre con un canale in mano. Sì. Oh, ma guarda che anche qua c'è un po' di... Vabbè, in campagna c'è freddo. In campagna c'è freddo la mattina. Questo sto guardando qua. Lavorando. E allora fui, sono entrato tardi anche, ieri notte, a lavorare e oggi è tutto così, oggi è tutto così. Però vediamo un pochino di tirare fino alle 10, dai. Adesso iniziamo nel fatto a aprire, cominciano a lavorare tutti i giorni senza altro, perché iniziamo a fare i tour per tutta la Sardegna, un sacco di gente, quindi ne avrai un bel di giornate. Aspetta che passo con l'ICOM, un attimino, che commuto l'antenna. Eia. E beh, Antonio. Il segnale è sempre uguale, la radio è un pochettino più bassa. No, perché l'antenna è la stessa, ci ho commutato l'antenna, questo qua è 737, dico. Quello che è la riparazione. Sta arrivando bene. Microfono normale naturalmente stai usando, sì. Sì, è il microfono normale, il microfono originale. Sì, sto facendo benissimo, sto facendo. Ha voglia. Dove sta arrivando? 9:25. È bella qua su. Ti ho di fronte in pratica. Come zona, sono in alto per lì. Ecco perché tenevo così forte. Dammi un segnale, quanto sono io da te, guarda un po', così prova la modulazione. 9:05. Io sono in basso, Antonello, però portate che la radio sia tranquilla, si può ascoltare e sia pulita. Tu vai in? A voglia di pulita, avanti già. Ehi, allora, ero al telefono, mi hanno chiamato. Non ho potuto avvisare, scusate se mi avete chiamato. Ciao Gabino, certi nuovi entrati, non so chi ci sia, e riprendo. Ciao Gianni, buonasera e ben sentito. No, sono entrato 5 minuti fa, riprendi Antonio. Ehi, siamo rimasti io, Gabino, gli altri sono tutti andati in quadretti. KK, vabbè, mi dispiace che non ho potuto salutare. Però mi hanno chiamato e come ho risposto ho abbassato il volume perché sennò non capivo cosa diceva. Andate, io mi allora, come è andata la giornata? È andata, è andata. Ieri ho finito, vero? Sono arrivato a casa, era mezzanotte e mezza. Sì, l'avevi già previsto, ecco, che era quello l'orario. Ma la sfilata si sta? Sì. E sono andato ieri mattina, sono uscito verso le otto e mezzo a casa. Sono arrivato lì, ho fatto un paio di commissioni, poi sono arrivato lì e ho piazzato tutto. Hanno iniziato, dai. Hai fatto il tecnico del suono? E allora? Caragava. Non ho visto dei carri che in televisione, che tanti paesi l'hanno fatto il carnevale estivo, ma dice che si vocifera che lo vogliono fare anche a Porto Torres adesso. Sì. Quest'estate mi sa che lo fanno, Scusate un attimo. Sì, lo fanno. Cioè lo fanno, dovrebbero farlo. Se sono parole buttate al vento, affari loro. Dai Antonio. Sì, questa non ce l'hai tutto. Carnevale Tempiese, carnevale di da lì, carnevale di là, poi la Sartiglia, di Oristano. Quest'anno è un casino, era a Tempio. Ho visto le televisioni, tutti accalcati, per il Covid. Io ho detto, quando ero ragazzo andavo tutti gli anni, qui andavo da giorno a ballare, c'era la fila fuori, facevo entrare a due. Figurati. Uniti e disuniti, uniti e disuniti, alla Sardegna di Oristano, uniti e disuniti. Io questa quest'anno di carnevale ho visto solo le frittelle, boh, basta, tutto il resto è noia. Ho comprato le frittelle appena fatte da coso, erano così buone, capì? Si sentiva il sapore dell'anice come le faceva mamma. Guarda, a Calvia, il panificio che c'è a Predanina. Molto buone, molto, molto, molto buone, direi. Lo so, lo so. Io domenica ho portato la bambina a tempio, te l'ho detto. Le ho comprate di lì, negli stand che ci sono. Erano buonissime, fatte, calde. Poi, cioè, me ne hanno dato un'infinità e ho speso 15 euro. Ed erano anche troppe, ce ne sono abbattate anche per casa. Ed eravamo 2, 4, 6, in 8, 8 persone grandi. 8 persone grandi eravamo. Lo bugia, 6 persone grandi con la bambina e ne sono avanzate. Caspita. No, no, erano buone anche lì, erano buone anche quelli lì. E tu mangiando non hai capito? Sì. Sì. Ho giocato di comunità e su lì mi sono guardato a poco. Sì, anche io le ho mangiate, perché non puoi rinunciare a tutto, dai. E queste occasioni qua non fai poi Ramadan, come ha detto il mio dottore. Una volta alla settimana si fa anche sgarrare, però poi Ramadan tutta la settimana. Sì, si la piglia e se la prende, ogni tanto già ci vuole, ogni tanto già ci vuole. Sono un po' giù di voce, sono un po' giù di voce. Vai, Antone. E poi cantando stasera, non mi uscivano le parole. Cantando, non riuscivo, perché magari sono quelle giornate che magari hai preso un po' di freddo e non accordi le corde vocali. È così. E Pompugno cosa dice? Ai, io via a cantare. Troppo. Quanto ti ho fatto un maggiubiliato? Sono sempre col naso la mattina quando esco, che cola. Oggi ha fatto caldo, adesso a mezzogiorno la una, ero con Giovanna, ho dovuto passare i finestrini della macchina. Ho giubbotto per un caldo da morire, penso per il giorno da una. Poi stasera è cominciato a fare freddo, è cominciato a cambiare la temperatura, ho visto. E beh, ancora non siamo in stagione faccia calda che di sera, ma vedrai che qui ti lamenterai che c'è troppo caldo. Ehi, vabbè, quello sì. Allora, facendo gli sbalzi così di temperatura ti pigli malani, capito? Il discorso è quello, ti pigli o la freddore, la tosse, cose del genere. C'è Simona che la mattina quando esce a fare colazione a giorni c'è la tosse, se no gli viene la febbre, poi deve pigliare, quando prende l'antibiotico sembra AIDS, sembra, gli diventa una guancia rossa, gli diventa. È stato 2 giorni così, capito? Sì, io. Andava. Quindi a Giovanna la mettiasse la stazione, adesso entra. E io. Adesso domani mi telefona Pietro, la mattina, porta notte. Mi dico di portarmi la bagnettica, così domani li piazzo il 2009 e intanto c'era già a casa sua, l'ha iniziato stamattina, per il giorno e mezzo da una è venuto il corriere e l'ho tolto dentro la scatola e gliel'ho messo in salone con microfono, ma adesso domani scendo il microfono a casa, ricordare quale vuole, se vuole l'MB più 4 oppure l'M95. Antonio, come radio, come mi ascolti a me con questo microfono? Bene. Questo è l'MB più 4 con Galaxy. Arrivi benissimo, è perfetto. Io ce l'ho l'MB più 4, nuovo, non l'ho mai usato. Se l'ho usato 2 volte, non di più. Nel Quadrex 4000 e nel 2009 che c'ho io. Adesso domani io chiedo a Giovanna se vuole uno o se vuole l'altro, il microfono. Così se lo piazza, tanto io il microfono ce l'ho, c'ho l'MB più 5, c'ho il Salelta, c'ho l'M95, siccome L'M24 qua, è qua dalla parte, nell'altro terminale 9 che è suo, perché quello va, è solo offerto, gli A2 in pratica terminale 9 ci vanno, c'è quello vero, che era il mio, e poi si è comprato quello che c'ha la mascherina agentata, che gli piace un bel, capito? Già intenzionato, guarda, se mi avevo avuto spese a comprare gli effetti di 250, te lo ricordi, quello vecchio, il primo che ho avuto, perché lei quando è entrata a baracchino, quando era piccola, usava gli effetti 250, usava tranquillamente, lo sapeva accordare, perché mi aveva visto come lo usavo, capito? Era molto attenta su queste cose qua, e ci è andata col baracchino. Sì, io me lo ricordo quando entrava molto più spesso di adesso, me lo ricordo, sì, era Arizzido quando entrava, non Arizzido, via Arizzido, cioè. Via Arizzido, esatto, sì. Adesso quando fanno la facciata, ne approfitto e li faccio scendere di capo. Capito? In mezzo al cappotto che lo faccio mettere il compro il cavolo, ce lo metto dentro al tubo o da 15 o da 20 e glielo faccio arrivare fino a casa sua. Così gli metto l'antenna sopra, o li compro la BIA 27L, e già gli va bene, gliela installa, almeno anche lì c'è l'antenna sua e tranquilla. Dimmi se c'è qualcuno che vuole una base magnetica con la tubo 2001 che l'ho tolta dalla macchina, se interessa qualcuno lì. Già chiedo, ce l'ho io la tubo 2001, l'ho data a Pietro, che poi non è mai entrato, mi ha dato il baracchino, l'ho dato la tubo 2001, ho detto usa, ho detto 20 a 27, almeno ho detto... Dato che fai il vigilante, e tu ci fai compagnia, no, niente da fare, no, non c'è verso. C'è anche lì il coso, il PMR, c'è. Adesso, siccome non lo sta usando, me la riprendo. Tanto è inutile lasciare le macchine, magari poi riapro la macchina e mi trovo senza antenna io, capito? Vabbè. Adesso ma Pietro, questo qui era già entrato in frequenza o no? È entrato un paio di volte, è entrato. Fa il vigilante, fa vigilante notturna in macchina, e quindi io ho detto un FM500S, gli ho dato, quello mi ha detto Marco, gli ho detto mi ti ha regalato un FM500S, ho detto usa, l'ho detto in macchina, gli ho messo l'attacco accendisigari con la magnetica, due volte l'ho usato, poi dice Antonio, è troppo lunga, mi ha detto eccetera, se ne vuole un'antenna corta, adesso quello di Cesca a Procolaglia, un'antenna corta, lui piace un'antenna corta, quella di una volta. E Mauriciani faceva il vigilante lì nelle ville dei Salis, ci aveva portato l'apparecchio, ma che le modulava di no? Lo so, già, no, non so, ma spesso al tempio, a coso, giù dove lavora Marino, va a fare il vigilante, capito? E poi dove arriva lo mandano a Vizzeggio parecchie volte. Ari, eccomi. Andava, ciao Marco, andava perché non c'è più, è morto. Lo so che è morto. Già lo so che è morto. Abitava via Montegrappa, se non ricordo male. Come più ci pensa venire a ballo, me la metto un po'. Avanti Marco. Buonasera a tutti, chi c'è rimasto? Chi sono io? C'è Gabriele di Portatore, c'è Alessio, vai per chi vuoi. Io sto modulando, sempre con i 4 watt, che poi c'è il filtro, eccetera, vediamo se a Gabriele arrivo sempre. E poi tra cavo e tutto ci saranno 2 watt, 1 watt e mezzo, 2 massimo in antenna. Gabino, mi copi, buonasera. Ciao Marco, buonasera, sì, ti copio forte e chiaro, radio 5, segnale 9+10. Segnale 9+10, tutto positivo. Avanti Antonio. Ma ti arrivi bene Marco, non ti preoccupare. Ogni tanto quando passo in casa già la vedo l'antenna, bella tettera. L'avevo pensata bene. bene, qualcosa, ma se sei tornato non ti stava facendo giù con l'antenna. Cappa, sì, è vero. Io mi ricordo che altre persone che lavorano piazzata li si è rotta tutti. Vabbè, qualcuno è stato anche sfortunato perché la lamella si è rotta, quella che va dalla bobina allo stilo, no? Quella vabbè sfortuna. Però certo li si è proprio spezzata. Questa l'abbiamo isolata prima di tutto bene per la pioggia. Più che altro quello, poi vabbè, messa bassa l'antenna, c'è un palo corto da 3 metri e mezzo, adesso ho levato un metro da terra il palo, cioè non tocca terra, quindi fai un 4 metri e mezzo dal suolo del terrazzo, ecco, lo vedo che sta durando. L'abbiamo piazzata nel 2014, a marzo o maggio, non mi ricordo, però per essere un'antenna di plastica, come la chiamo io, sta durando anche troppo. Cappa, riprendi già. E non abbindaccia, lasciala durare, che poi se no devi risalire a piazzare l'altro. Io dicevo, quando si romperà non ne piacerò più, però tra il dire e il fare poi, sai, poi c'è una Venom che non sto usando, quella anche d'emergenza va bene, se dovesse rompersi questa almeno provvisoria non rimarrei senza radio, per quanto lo sto usando poi il baracchino. Gavino, riprendi. Sì. Guardate a chi servono, io sto vendendo due antenne, sto vendendo una GPE, una Sirio GPE e una Sirio GPS, una con i radiali e una senza, una mezz'onda e una 5 ottavi. Poi se sentite qualcuno, sto vendendo anche un Superstar 3009, un alimentatore, un CT e un 747, un MB più 4 e tanta altra roba. Devo liberare un po' di roba perché l'ho presa, ma non me ne faccio niente. Quindi se sapete chi vuole qualcosa, fatemelo sapere. Guarda Vassilio, che stai dicendo tu, c'è la Marcomi, e quella lì è la bella 27enne, quella lì è. La chiamano, poi Meco di 5 ottavi, ma è sempre quella comunque, c'è la mezz'onda e c'è la 5 ottavi, quella che sta sempre Marco, quella lì. Ce l'ho nuove io, nuove. Sì, confermo, allora Antonè, confermo. Io sto usando la, si chiama Midland New Energy ed è il clone della Sirio con i tre radiali da 1,30 m, però la Sirio ti dà in più, l'unica cosa in più che ti dà sono quei manicotti che si innestano tra un segmento dello stilo e l'altro per renderla più robusta e vabbè, principalmente per non far entrare l'acqua, però io consiglierei, una volta dicevo se a volte è meglio buttarli e mettere il vulcanizzante, invece no, siccome te la robustisce è meglio mettere i manicotti e in più il vulcanizzante, è ancora meglio il risultato, sì. E ripeto, capi, questa antenna, nonostante il vento, perché qua poi Gianni, qua il maestrale arriva diretto, però cioè non ho palazzi alti che lo bloccano, quindi quando arrivavano delle bordate qua era allucinante, si sentiva il fischio del vento. Certo, non sono fronte mare, quello che volevo dire, però credevo che non durasse due, ho detto guarda, se dura 2 o 3 anni si è ripagata, invece è vero che va. Tutto sta a trovare l'esemplare senza difetti di fabbrica, soprattutto nella zona della bobina, capito? Vai Gianni. E mettili in vendita su Marketplace. Sì, vabbè. Io ce l'avevo, guarda, le ho prese, le ho piazzate sul petto, le ho piazzate, erano piazzate, una per il Superstar, una per quello, una per quell'altro. Mi sono rotto le scatole, ho tolto tutto, ho lasciato la Grazioli, la Discona e l'antenna VU, basta, commutatore e antenna live, da una radio all'altra, poi lì come ci ho attaccato la Long Live, dalla seconda attacco l'antenna, quindi basta, avevo tutto per il tetto troppo, c'era troppa roba, quindi ho smaltito un po' di roba e in garage, tutta belle, tutte e due belle sistemate, c'ho quella, ho la Firenze 2, ripeto, sto vedendo quel Superstar che stavo usando l'altro giorno, adesso lo metto in vendita, metto un po' di roba in vendita perché non le faccio niente, per tenerla ferma oppure tenermi casino, non le voglio. in macchina non me ne metto, in macchina non me ne metto, quindi non mi serve, non mi serve. La 32 qual è? Quella blu, lo stilo grosso. E la 32 l'ho presa proprio in Sicilia l'ho presa, 40 euro spedita, l'ho pagata, nuova, con la carica blu. Ah no, sei l'unico che l'ha trovata la 32, perché c'è un dirigente che la sta cercando con l'antenna, ti darebbe anche 300 euro, basta averla. Se la 32 è la propria originale, come la metti su Facebook, piglia il volo con l'antenna, te lo sto dicendo io, se la metti in vendita, perché è molto ricercata con l'antenna lì, eh. No, con la 32 me la tengo, sì, è l'originale, beh, per forza, l'ho trovata in Sicilia tramite un gruppo che c'è su Facebook che mi hanno inserito. Ecco, tutti mi hanno comprato un lotto di antenne e in mezzo c'era questa Firenze 2, perché sono stato fortunato che appena l'ha messa stavo facendo le foto e sono stato prima ad aggiudicarmela. L'ho chiesto quanto la voleva, mi ha detto guarda, se mi metti 40 euro te la mando. Vabbè, io ti metto 40 euro, ma le vanno, hanno perso 40 euro, invece mi è arrivata avanti ieri, è arrivata lunedì mattina, e lei tranquilla, serena, e l'ho anche provata l'altra sera. Sì, sei fortunata, ma non ti conviene neanche venderla, tieni la con l'antenna. Con l'antenna va in 27 e anche in VHF mi risuona, esce molto forte come antenna, hai fatto bene a prendertela, non darla a nessuno, perché quella vale un bel po' di soldi. La sta cercando un sacco di gente, se tu scrivi Firenze 2, ma lo sai la gente che lo sta cercando, dice darei anche 170 euro, anche 200, basta di averla, perché era l'unica antenna che funzionava benissimo. A Sassari, magari qualcuno ce l'avrà magari conservata in casa o in qualche garage, capito? Perché prima c'era la sacogliata, ce l'aveva a Sassari negli anni 87-88, mi pare che era. Un sacco di gente ce l'aveva, l'ho avuto anch'io, le prime 5, cioè la mezz'onda, mi pare che, se non mi ricordo male, una mezz'onda l'avevo, quindi figurati. Io ho avuto la Super Regibus, invece la Super Regibus Giovanna abitava giù ai punti, me l'ha lasciata sopra la tettoria, poi Giovanna si è dimenticato di staccarla, il padrone di casa ha preso e l'ha staccata lui e se l'ha tenuta lui, capito? Quando la parchiera ha detto mi serve la cosa, no, dice, o se la mi deve dare, dice dei soldi, me la tengo io, mi ha detto. Hai capito? Come ha avuto male, ha detto va a far culo, devi dire aiuto. A me ha detto, mi dispiace, ha detto che non ce l'ho più, perché ci va veramente bene, ma devi dire aiuto, cosa devo fare? La prossima volta ha detto, quando va a installare qualche cosa, prima salgo su, il sacco, poi se c'è qualche problema se la donerà qualcun altro. C'era anche la Stardaster che la vuole lì. La Stardaster, c'è solo l'antenna comunque, se ti fai il giro, sai quante volte ci sono buttate sotto al tetto da attaccare. Comunque basta avere culo, che magari fanno il 110%, salire sopra il tetto e chiedi al capocantiere, salire su a staccare l'antenna, ho chiesto al capocondomo il metodo di staccare. Ho fatto salire su con una vola, butti giù il palo, smonti l'antenna e te la porti via. C'è anche la, così c'è quella di lato a fianco. Una specie di gran pezzo, non mi ricordo come si chiama, quella di quel tassista lì, sto parlando di che non mi ricordo il nome adesso, quello che ha anche le pizzerie, ah, di cosa sto parlando, quello che faceva il tassista in Viaduca di Abruzzi, attraverso il Viaduca di Abruzzi, non ce l'ho presente. Io mi ricordo l'Aquila di Gnogno, tassista, che aveva l'antenna con i radiali sulla macchina. Ah, sai, quella di Gemma c'aveva con l'antenna da mettere in macchina con i radiali, quella era bella, non c'era, quella l'ha buttata solamente lui, ce l'ha, dovrebbe bella ancora lui, c'è ancora vivo, naturalmente. Beh, suppongo di no, ciuccia bombe. Vabbè. Vabbè che se sono bella che non lo vedo manco io, quindi figurati. Ma io tanto tempo fa l'avevo visto con una motocarrozzella caricando piante la serra che c'è dietro il cimitero lì. Adesso c'è una... penso sono tanti navi, ce li avrà senz'altro. È vivo, sì, era già sciupato come doveva superare il Curici. Vabbè. E poi c'era Pinguino, che era il genero. Già lo so, già ci hanno fatto la fine Pinguino con Camino. Io le belle donne eccetera eccetera l'hanno rovinato. Antonio del 20 sta parlando, te lo ricordi Antonio del 20? Sì, a voglia. In via lui, dove abitava lui, c'è ancora l'antenna piazzata lì, in quel palazzo, non è mai caduta. E poi di fronte a lui c'era, sempre da due abusi, l'antenna di quel ragazzo cieco, che ho visto che la Mantova si era piegata 3 anni fa, sono saliti sopra e l'hanno staccata. Forse ce l'avevano buttata. E se va a satellite lo stesso produttore, il tubino di antenne, ci sono i residui delle antenne che c'è. Ma c'è un po' di gente che ce ne ha, che cosa, lampati. Ce n'è anche una a Monteolo che veniva qua, immagini quando c'era il negozio Usai, veniva spesso a trovarci. Ma proprio questa specie di Saturnecco, ma non era Saturnecco, perché rimane, il frequenzimento non ce l'aveva. E avevo detto io di salvare un depolo lì a Monteolo. Poi non l'ho più visto. Avanti che avrei. È positivo. Poi la satellite, guarda, ci sono, vedi, tutt'altro, ci sono dei poli, qualcosa già c'è. C'è qualcosa ancora, e la satellite se la rifugi, giù via Libio c'è qualcosa ancora, sui tetti. Antenne spezzate di gente che è morta, magari non hanno smontato i figli, non hanno smontato niente. Ma alla fine cosa evitare, raccoglierti tutta la mondezza degli altri, ma per carità, ma per piacere, ma lascia qua, non ce ne voglia. Puoi evitare di lì andare sui tetti, di rompere le tegole, di tagliare le tegole, per cosa? Per un'antenna rotta. E poi se sono antenne che sono 20 anni su, quando va a toccare si sbriciolano. No, queste che ho io, sì, allora, come stava dicendo Marco, hanno i cosi in fa, ma sono nuove, ma ti parlo nuove, non usare, sono nuove, comprate nuove. Adesso le prendo, le pulisco bene perché hanno un pochino di coso, ma quelle le vendo, quelle se servono a qualcuno la vendo. Un Supercar 3009, un alimentatore Lafayette, 20 ampere, lo stesso. E un po' di roba adesso me la faccio fuori, un po' di roba me la faccio fuori. Le prendi Marco se ci sei ancora. Ciappa, sì, sono valide come antenne, certo magari non paragonabile a Mantova, Grazioli, però per il prezzo che hanno, insomma, funziona. Importante fare, ripeto, quell'isolamento per l'umidità, isolare tutto l'isolabile, noi l'abbiamo stagnata proprio col vulcanizzante. Invece Natalino per esempio aveva dato molti, molti problemi di infiltrazioni d'acqua, praticamente si riempiva la bobina d'acqua e come pioveva gli saliva nel stazionario a 2, forse anche 2,5 ed era un po' problematico modulare o fare passaggi lunghi, dai, quantomeno. E io le ritengo già superiori queste Sirio / Midland alle Venom, perché la Venom, cioè almeno la Midland, la Sirio ha una bobina segna è questo nome, vedi, rame di un certo spessore, ma la Venom è una cosa allucinante. Gavino forse non l'ha visto come era fatta la bobina della Venom. Praticamente era una specie di anima di cartone piccolina, è presente il nastro isolante. Tu immaginati l'anima di cartone del nastro isolante, e lì c'era un filo sottilissimo di rame, proprio sottilissimo, e qui era tutto, diciamo, isolato con una specie di nastro isolante rosso. Ecco, quella era la bobina interna che c'è alla base della Venom, sia a mezz'onda sia a 5 ottavi. Io come l'ho vista mi sono messo a ridere, però, ma sì, vabbè che costa poco, ma non puoi fare un'antenna con un coso del genere. Puoi funzionare, funziona, però credo che sia ancora più risicata come, come dire, non come diametro dello stilo, come spessore proprio del metallo, la Venom. Non hanno vita molto lunga quelle lì. Certo, bisognerebbe provarle alla lunga, col vento e tutto, vedere quanto durano. Cappa, vai, Gabi. Guardi, forse queste sigle vanno bene, io me le ho accordate sia alla mezz'onda sia alla 5 ottavi. Infatti le ho ritirate, c'hanno 2 metri di palo, le ho accorciate, le ho piegate, però l'ultimo filo, diciamo, l'accordo gliel'ho lasciato già regolato, perché se qualcuno volesse prendere quello che vuole, mi dice com'è, tipo vieni sul tetto, l'allungo, gli metto le viti, le faccio vedere che quella lì, che è un'antenna, che con 747 ha stazionarie in tutti i canali, ha 1 e 1. Provare per credere, stazionare con 747 1 e 1. Quindi regolata a dovere, registrata a dovere. Anche io quando l'ho piazzato, l'ho vulcanizzato, ho consumato 2 rotoli, 2 rotoli di vulcanizzante, che dopo un mese l'ho tolta. Però era per provarla e vedere, diciamo, che se c'è il discorso di quarantena, io ti posso dire vita, morte, miracoli, perché l'ho provata, sta provata, registrata. E l'unico difetto è nell'ultimo tiro, che alluminio, che è alluminio, è pieno e va a ossidare, e una volta che si ossida quello non diventa più regolabile, capito? Perché fa la patina dentro e devi tagliare l'antenna, togliere, e diventa un po' un macello. Quindi ci abbiamo fatto anche un po' di esperienza con quelle antenne lì. Niente, no, Antonello, la Firenze 2 che ho io è una mezz'onda caricata con i radiali, con 4 radiali che scendono a 45 gradi, si chiama Firenze 2 modello Aurora. Ho capito. Non è la 32 quella che sto parlando io, allora. La 32 è vera e propria, c'ha 4 radiali, sono di colore verde. Si può anche modificare i radiali, addirittura si potevano mettere i radiali della Gran Prima all'interno. E pompava, che era un treno questo pompava. Già adesso che è una mezz'onda, anche la ricevo io, che pure rimasta lì a cosa di punti, si è tenuto quello là. A mezz'onda lo stesso, la Super Regibus, quella era buona lo stesso, quella l'avevo messa nel caminetto io, l'avevo piazzata con un palo da 2 metri, nel caminetto sentivo tutto il centro Sardegna. Ho fatto la prova tra quella e la B27L, pompava di più la mezz'onda che la B27L. Sì, guarda, questa qua pompa, questa antennino, questa mezz'onda, questa Firenze 2 è una mezz'onda, va. Anzi, le mezz'onda vanno, per i DX vanno meglio delle 5 ottavi, perché la 50 ottavi è un'antenna, diciamo, cittadina, la mezz'onda è un'antenna DX. Una Firenze 2 comunque c'è, diciamo, te grappa, l'ho pensata io, è la Firenze 2 Explorer, c'era Roberto Pinna, ce l'ha. c'hai, guarda, l'unico difetto che c'ha è che c'è una specie di malicotto per abitare, per singere dello stilo, in pratica si sono tutti smollati e esce dello stilo tutto dentro, capito? E installata sopra l'antenna della TV, solo che a salire sopra quel tetto è un casino adesso, prima salivo tranquillamente perché veniva bene, adesso invece non viene più bene, ci vuole una scala aerea per salire sopra e bisogna essere almeno in due perché c'è pesa quell'antenna. Quando ho pensato, l'abbiamo pensato io e Roberto assieme, figurati. Quando mi ha detto vicino, la stacca l'antenna, vai, non ci sta così da quel tetto. Antonio, il fratello quello che è morto, mi chiamava l'uomo dei Tittic, immaginati. E allora era molto più magro, eccetera, eccetera. È molto più agile, adesso salgo adesso in quel tetto, se salgo ci vogliono i pompieri a farmi scendere. No, a parte il fatto che adesso sui tetti è un casino, Antone. No. Se ci volesse da solo c'è la piovenza, tu vai io su a guardare con l'antenna. No, lascialo per. E già sta bene lì, L'importante è che se cala non faccia male a nessuno. Riprendi Marco. Cappa. Ti volevo fare un paragone, capiti? Tempo fa. Adesso per dire, io prima di questa avevo montato la mezz'onda della ecoantenne, la cosiddetta, Antone aiutami, uffa, non mi viene il nome. Mezz'onda della ecoantenne. Vabbè, adesso non me lo ricordo neanche io, figurati. Non so, la Grand Prix, la Grand Prix è un quarto d'onda. Cosa diavolo era? Non mi ricordo. Allora, la Ringo. Allora, con la Ringo e il palo da 6 metri, nota bene, palo da 6 metri, Sandro di Porto Torres, che aveva modulava dove c'è l'ancora, no, sopra la chiesa dei Balai, mi ascoltava nel QRM, con il watt normale, no, 4 watt. Come ho messo questa, col palo da soli 3 metri e mezzo, mi ascoltava normalmente, naturalmente senza lineare né nulla, no, la prova a parità di watt. Tu immaginati quanto era fatta male la Ringo della LEM. Cioè, sono passato da non essere ascoltato a Porto Torres, che è anche vicino, all'essere ascoltato. Quindi questa già, diciamo, non è pregiata come antenna, ma se li vale comunque i soldi che costa. Capito, cioè, non mi aspettavo una differenza tale, da arrivare nel QRM a essere ascoltato come magari mi stai ascoltando tu, per esempio. Poi ho visto pochi giorni fa la Grazioli mezz'onda, tu immagina, mezz'onda, un capolavoro, è un monumento quella, non è un'antenna. 190 euro, più spedizione mi pare arriva a 210 euro, però è una mezz'onda che tu la piazzi e dura 40 anni. Certo non è paragonabile per esempio alla Venom che costa 38 euro, perché sai, a primo acchito tu la metti su, magari ti funziona, ti sentono tutti e uno dice è una bomba, però poi come passano i mesi o gli anni ti accorgi che meccanicamente l'antenna non resiste. Tipo la Venom. Invece la Grazioli è spettacolare, certo io non li spenderei, però cioè, quanti materiali proprio generosamente sovradimensionati, se le parti in alluminio, se la parte in acciaio, veramente bella. Vai capì. Ah, c'è Gianni anche, Gianni. Sì, vabbè, dai, non c'è problema, già mi sto ascoltando. Niente, che dire. Sì, la Grazioli è una bellissima antenna. Ma anche quella che ho preso io c'ha le parti in acciaio, la parte proprio che si arrugginiva dove si attacca il PR, tutto in acciaio quella parte lì, dove si dice il tubo, tutto in acciaio. Il resto è alluminio, però quel pezzo lì è in acciaio. Sì, e poi quella è mezz'onda, no, per non parlare anche della 5 ottavi, della Grazioli, o peggio ancora quell'altra 7 ottavi, cioè 5 ottavi più un quarto d'onda, quella è veramente... una cosa fuori di testa, ma è per pochi, perché ha un peso anche notevole. Gabriele Riprini è copiato Crowell della cosa della Ringo. La Ringo purtroppo era realizzata veramente male, non si spiega se no questa differenza di copiabilità. La Ringo ce l'ho avuta anche io, ma la Ringo, vabbè, è un pezzo d'alluminio. No, io ho la Grazioli, io tra l'altro sto usando la Grazioli da 5 ottavi, la 5 ottavi della Grazioli, con 4 radiali. No, vabbè, sono antenne che costano 200, che viene, questa qua l'antenna viene 229, nuova. Però cioè sono antenne sì che durano 40 anni, perché è pesante, cioè in un tetto normale, in un tetto spiovente soprattutto non la piazza, cioè è macchinosa da piazzare perché è pesante e tutto. Poi loro ti mandano anche tutto il grafico di come deve essere installata, capito? E ti dicono le lunghezze consigliate per delle frequenze. No, è un'antenna completa, e sotto il basamento è tutto in inox, con le frange dove attaccare i radiali in inox, con acciaio inox, la frange radiale in acciaio, l'alluminio è alluminio di prima, non è alluminio, non è di quello tenero, il teflon si vede che è molto spesso là. No, io sono contento, io di questa antenna sono contento, non mi posso lamentare. Piazzata, stazionarie, 1-1 in tutti i canali, tranquillo, no, non ci sono problemi. Qua il mezzale tocca veramente, qua tocca molto il mezzale, e la tramontana, l'altro giorno c'era quella tramontana, io ce l'ho sul traliccio, capito? Su 6 metri di traliccio. Facevo su 6 metri di traliccio, poi c'è lì sopra, e faceva vibrare il traliccio, lei si piegava, però sembrava un albero di barca a vela, capito Marco? Sì, ho visto anche, a proposito lì dello schema, ho visto anche viti, rondelle, di tutto. Poi l'altra non ne parliamo, la 7 ottavi non ne parliamo, c'è una quantità di componenti che bisogna farlo con calma e non bisogna avere fretta di piazzarla, perché poi se ti avanzano pezzi è un problema. Capo, adesso io stacco un attimino, vado. Aspetta, alle 9:05, vabbè, io adesso vado, accendo un po' di TV, poi cucino per mamma, do da mangiare alle gatte pure. Volevo chiedere a Antonello e Gianni, che erano già prima qua, se hanno notato niente nella modulazione. No, si sta bene, ha perficcato e sei perfetto, quindi figurati, sei tranquillo. Radio è chiaro. Io mi notavo che mi sto facendo la cena, già almeno 10 adesso mangio, poi già dopo già rientro. Ok, qua Rix è per me, c'ho la roba del fornetto, sono bigliavogu, il pane e il formaggio. Ciao. Buon appetito, Antone, saluto anche io, dai, che vado anche a mangiare, magari poi se ce la faccio rientro. Gianni, avete ripreso in due, puoi ripetere? Praticamente saluto Antonello, gli ho augurato la buona cena e buon Rix. Ho detto adesso chiudo anch'io, vado a mangiare e poi magari se ce la faccio rientro, dai. No, dicevo del mic. Che cosa? Del microfono, non hai notato niente? No, se faceva difetto. No, io ho cambiato microfono senza dir niente. Questo è l'M95, mi vedo la prova. Per vedere se si rotava la differenza l'ho fatto, dai. E quindi no, non è il KPO ma è l'M95, mi ho inserito anche il dip. L'altro mi sa che è un po' più forte, dai. Però è buona anche questa la modulazione. Vabbè, io non ci ho fatto caso perché stavo guardando il telefono e mi hanno mandato dei messaggi, quindi stavo leggendo, non è che ci ho fatto caso più di tanto. Eia, aspetta che lo levo. Ah no, l'ho già tolto, sì. No, praticamente per uscire come... Allora, tu metti questa manetta, questo ZG lo devi mettere a manetta ed esce come il KPO a metà, capito? Il KPO a metà, se lo alzi tutto il KPO è fortissimo, anche troppo, anche non eccessivamente forte, quello lì volevo dire, va bene? Allora io stacco momentaneamente, Gabri, buona serata, se non ci sentiamo più tardi, che buon proseguimento di serata, vediamo se loro rientrano. Io adesso stacco, poi mi cerco qualche film mio, mi attacco un po' allo schermo. Ok, buona serata a tutti, Santonello, buona cena, Gianni, Gavino se deve cenare ancora, ci sentiamo alle prossime, ok? Vai Gavino. Sì, adesso anch'io ho fatto un attimo e poi mezz'ora, quarti d'ora sono di nuovo qua in radio. Chi vuole entrare fa chiamata e io sono qua. Ciao Marco, ciao Gianni, fate buona cena, ciao Antonello, anche tu a Tintoro Gaggio, ci sentiamo tutte le prossime, dai, o dopo, io se volete entrare dopo sono qua. Buona serata a tutti. KGB, guarda, hai notato differenza nella timbrica, questo è l'altro, questo è il KPO. Marco, ho parlato sopra a me. Oh, abbiamo ripreso in due. Però scusa, già, Gavino, ecco, questo è il KPO, hai notato qualcosa a orecchio, così a caldo? Quello che stavi usando prima, la modulazione è un po' più dai, sulle medio alte, è molto molto medioso, questo qua è più è un po' più corposo come microfono, almeno come ti copio io. È più bilanciato nei toni, sì, è vero, l'M95 ha toni un pochino più alti, che alle volte a me in ascolto piacciono meno. Va bene, ok, fatta la prova. Signori, di nuovo, se ci sentiamo stasera bene, se no in altre occasioni. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao Marco, io mi avevo preso l'appetto di verniciarlo tutto di nero, nemmeno 95, perché non mi piaceva, sembrava un giocato. Sì, è vero, è un po' bruttino questo cursore giallo, queste serigrafie, che poi le serigrafie vanno via col dito quasi, lo sai. Vabbè. Vabbè, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo. Ciao Gabi, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao. Ma Inzo ci si? Sì, già. Aspetta che mi filo le cuffie. Ehi. Eccomi qua. Beh, già. C'è l'atto? Ehi, stai innescando, Gabi? No, non sto innescando. Sono in centro di Santa Mita, sì. Sì. Sto guardando una cosa in centro di Santa Mitri con l'HF, ho sentito una cosa strana, e niente. Io mi ha fatto il sonno, voglio ricuffire, entrando che sono bruscio, mi ha assordato. Io ho abbassato. Io non riesco, se sto parlando qua non riesco a ascoltare altro, c'è gente che ascolta, tipo tu hai ascolta due, tre frequenze insieme. No, anche io, cioè, io già ci riesco, non ho problemi. No, io non riesco perché non riesco a concentrarmi, mi chiama uno, c'è la voce di quello là, devo abbassare, un casino. No, vabbè, ma però io ho, diciamo, la banda marina e adesso, poco fa stavo ascoltando la banda aerea, adesso ho la banda marina e poi stavo, ero giù al centro di Santa Vita e stavo guardando una cosa, sto ascoltando da qualche giorno una cosa e devo vedere cosa è di bello. Guarda, è pieno di UFO in giro, è di schivolato. Da tutte le parti stanno venendo, se non so, tutti in vado. Stanno venendo di schivolati da tutte le parti, a Roma, li hanno visti, a Parma, da tutte le parti. Tu dici che sono di schivolanti? Che li hanno dei disturbi, magari. La mia compagna ci crede fermamente, io non li ho mai visto, lei l'ha visto, quindi ci crede, io non li ho mai visto e sono un po' scettico, non è che possa dire ci credo o non ci credo, però sono un po' sul chi va. Io ci credo sia queste cose qua degli UFO, perché noi non siamo soli, nell'universo non siamo soli, e poi quanto alle cose che si dicono, alle dicerie di Vittorio Estraneda, ci credo. Io credo a tutto già, cioè credo a tutto tranne Gary Vauri, capito? Sì, sì, io guardo molto, la notte la passo molte volte fino alle 4 di mattina, alle 3 e mezza, guardandovi i filmati del paranormale, che vanno a fare le visite a queste case diroccate e praticamente appaiono fantasmi, tutti di più. Lo zoo di Vermica, l'altra volta ha suonato, c'era un pianoforte, c'era questa casa abbandonata, se c'era un pianoforte era chiuso col tappo, si è aperto il tappo, boom, e ha suonato il pianoforte, cazzo, mi ha assunto di mamma qui, mamma mia. Ma non ti capita mai di quando vuoi andare in certi posti e volete andare via, perché hai delle situazioni, diciamo, io l'altra volta sono andato a vedere una cosa, già, e di radio, di una persona che non c'è più, e me ne sono voluto andare, ma a me, io non lo so, qua ancora oggi ti fa, io qua, ci vediamo, se ci vediamo in verticale, ti racconto la furia e me ne sono voluto andare. Ma boh, una cosa un po' strana. Anche io, ma lo fa quando vado al cimitero a trovare i miei genitori, mia sorella. Faccio una preghiera ma ne vado via subito perché non riesco a stare più di tanto, lo sai, non riesco a starci. E poi me lo facevo quando c'era mia sorella in coma, che non riuscivo a stare più di tanto, dovevo salutarla e vederla così, non potevo stare a guardarla così con gli occhi sbarrati verso l'alto, con le braccia e le mani proprio tetari, non le muovevo per niente. Assente, quindi la vedevo così, siccome era la mia sorella che l'ho più affezionato, mi faceva regali, mi coccolava molto, mi comprava le macchinette da piccolo, ma macchinone di quelle telecomandate che costavano un sacco di soldi, infatti mamma la sgridava anche, e dice, ma mio fratello, fregate, tu gliel'ho comprata io, e niente, e purtroppo per colpa dei dottori è entrata in coma, perché lei c'era diabete insipido, non l'avevano capito, questi dottori gli dicevano sempre di avere sete, di avere sete. È andato dal dottore, gli ha detto, ma forse lei è ansiosa, questo e quell'altro, e l'ansia che glielo fa fare, è entrata in coma, cazzo, dove a fare le pulizie, ha chiamato, lei gli ha risposto, ha detto sì, vieni stasera, suonava, non rispondeva, alla fine si è fatto dare la chiave da quella di fronte, ha aperto e l'hanno trovata sulla vasca riversa, lì non è andata manco a letto la notte, si è sentita male, è andata praticamente in bagno cercando di, forse doveva, aveva voglia di vomitare, non so che cosa, si è seduta nel bagno, l'hanno trovata con la testa riversa sulla vasca da bagno, è stata praticamente così tutta la notte, è entrata in coma, è stata 4 anni così in coma e poi è morta. 4 anni in coma? Sì, 4 anni, che non era, era un vegetale, veramente non ci riconosceva niente. Beh, beh, ci aveva la glicemia a 1000, io c'avevo la 800 a 1000 con la glicemia. No, è il contrario, Davide. Era diabete insipido, praticamente il diabete insipido ha bisogno di zuccheri, di cose, a una certa volta devi mangiare una pesca, una pasta, una cosa per tirarsi su. Ce l'aveva una mia collega e a quell'ora se non si bagnava qualche cosa sveniva. Ma vai, faceva tremore, e quindi è tutto al contrario, quindi tutto al contrario. Sì, al contrario del... praticamente... fargli vedere la fotografia di sua sorella e dirgli guarda come l'avete conciato. No, avete... Tu, cioè, se lo vuoi parlare va bene, se no, Ciccio. No, no, casa non